voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Roberto Colletto, Piscine Castiglione, dal giardino di casa ai Giochi Olimpici di Rio, di Anna Marino. Per me lo sport è una vera priorità, nel senso che quasi tutto il mio tempo libero, io ho tre bambini piccoli, quindi il tempo libero non è tantissimo, però quasi tutto il mio tempo libero lo dedico in buona parte allo sport. Però nonostante io appunto come attività dovrei dedicarmi più a sport acquatici, nuoto, ma non sono un gran nuotatore, e amo invece più sport tipo lunga distanza, faccio ultramaratone, cose molto lunghe, quindi sport più terrestri. Poi ho fatto in passato anche molti sport acquatici, windsurf eccetera, però ad oggi la mia passione principale sportivamente sono corse di grandi distanze. In realtà 3 giorni fa ho fatto una bella gara a montagna a Cortina, quindi proprio recentissimo. In prima persona dedito al mondo dello sport, non solo per ragioni di impresa, Roberto Colletto trova spazio tra vita e azienda, Piscine Castiglione, la cui attività appunto si svolge tra divertimento e sport nel settore piscine pubbliche e private. Seconda generazione della famiglia fondatrice dell'azienda, che ha raggiunto quasi 55 anni di storia. Nata a Castiglione delle Stiviere nel Mantovano nel 1961, è attiva in circa 70 paesi, con una filiale negli Stati Uniti, a Sarasota, in Florida. L'azienda conta più di 200 dipendenti diretti, oltre 300 collaboratori esterni e un fatturato 2015 di oltre 78 milioni. Roberto Colletto racconta le origini dell'impresa, una start-up del secolo scorso creata dal padre Giorgio. L'azienda è nata nel 61, come probabilmente molte aziende, in modo abbastanza casuale, nel senso che mio padre, che allora era un giovane dirigente, ingegnere, che arrivava da Torino, Val di Susa, era in Veneto in quel momento, lavorava per un'azienda di food, e ha incontrato una persona anche molto creativa con cui hanno deciso di mettersi in società, con l'idea, forse una cosa che oggi suonerebbe un po' strana, con l'idea di fare qualcosa di innovativo, ma quando hanno creato la società ancora non sapevano esattamente cosa. Allora hanno iniziato dai pannelli solari, che in quel momento si affacciavano sul mercato e li acquistavano in Israele. Poi il mercato in realtà era davvero prematuro per quello, allora hanno acquistato un pezzo di terreno e hanno deciso di costruire un hotel. Nel far questo hotel avevano bisogno di 4 piscine, e quindi è lì che la casualità in realtà li ha portati a incontrare quelle che erano le prime tecnologie che allora arrivavano dagli Stati Uniti e che erano i primi prodotti, diciamo, industriali del mondo della piscina. Quindi hanno realizzato l'hotel, poi l'hanno venduto, e diciamo che entro la fine degli anni 60 erano partiti invece proprio a realizzare piscine. Era anche un buon momento perché in quegli anni il mercato edilizio in Italia stava abbastanza sviluppandosi, e quindi cominciavano ad esserci anche case di pregio, ville che pensavano all'acquisto di una piscina, e quindi noi abbastanza rapidamente ci siamo trovati poi a fare già ai primi anni 70 400-500 piscine un po' in giro per tutta Italia. Quindi è stata una partenza anche abbastanza fortunata, ma è un po' casuale. E come in ogni startup, all'inizio si deve saper fare tutto. E ancora oggi, oltre a fabbricare direttamente gran parte dei componenti, l'azienda cura la progettazione e l'installazione delle piscine vendute, dalla A alla Z, resistendo da sempre agli alti e bassi del mercato. Chiaramente all'inizio, essendo una piccolissima azienda, anche lui faceva un po' di tutto, quindi si trovava davvero in contatto sia con l'aspetto costruttivo che poi con i clienti, i primi clienti. Lui ad esempio ricorda molto la crisi del petrolio, perché ci sono stati avvenimenti che per chi lavorava nel lusso, perché comunque già allora era lusso, erano momenti in cui era molto difficile capire cosa sarebbe successo l'anno dopo, per cui sicuramente i primi 10-15 anni ha dovuto attraversare delle crisi anche importanti. Magari c'era un settore che tirava di più, uno un po' di meno, ma siamo sempre riusciti a cavarcela. Il territorio è stato un elemento chiave per il fondatore, che si è trasferito più di una volta per cercare il suo destino e le expertise necessarie. In quegli anni mio padre lavorava in Veneto, quindi non era lontanissimo, ma la scelta proprio di Castiglione delle Stiviere perché era una delle ultime aree del nord Italia che ha dato incentivi fiscali, se ricordo bene, per 10 anni, e ha creato così facendo un piccolo polo industriale che tutt'oggi rimane, e qualche grande azienda, e quindi in quel momento è venuto poi casuale, ma in realtà ottima scelta. Tra l'altro è un punto che ha anche buone vie di comunicazione, quindi abbastanza strategico, ma rimane un piccolo polo, quindi anche più vivibile per noi come famiglia, poi è anche un'area piacevole dove andare ad abitare. E il passaggio di testimone tra generazioni è ancora in corso, perché padre e figlio lavorano in tandem. Mio padre, che ha tra qualche settimana 80 anni è ancora tuttora molto attivo e soprattutto una persona molto aperta e anche stato molto creativo nello sviluppo sia della società iniziale anche del prodotto. Mi pare un buon ingegnere, molto votato all'innovazione di prodotto. Io penso di essere forse più manager in quel senso che ha probabilmente mi sono occupato più di sviluppo all'estero, di strategia, di organizzazione e credo che questo abbia funzionato bene. Cioè alla fine un'azienda che non è grandissima come la nostra, sono due ruoli ben distinti ma anche ben chiari e con rispetto reciproco e quindi questo secondo me ha permesso all'azienda di avere appunto due figure ma che spingessero su due aspetti un pochino paralleli. L'azienda segue da sempre la progettazione in Italia, produce gran parte dei componenti nella sua manufacturing unit di oltre 3.500 metri quadrati e qui forma le squadre installatrici delle piscine operative in tutto il mondo, mettendo in campo più di 500 persone, di cui 300 collaboratori esterni, per arrivare a installare più di 1.800 piscine all'anno, di cui oltre 300 pubbliche. E per il suo sviluppo, anche internazionale, spiega Roberto Colletto, ha puntato su due leve nella sua produzione. Noi abbiamo preso due strade che secondo me sono state fondamentali sia per la salute finanziaria e economica dell'azienda negli anni, ma anche poi per quello che è la nostra realtà di oggi. La prima è quella di aver puntato molto e molto presto sull'export. Cioè noi, un po' per vocazione anche nostra personale, familiare, ci muoviamo volentieri all'estero e oggi l'export per noi pesa più del 70% della nostra attività, esportiamo in circa 60 paesi. L'altra è quella di aver invece sviluppato poi molto, anche se oggi le piscine private rimangono una parte importante della nostra attività, abbiamo sviluppato molto quelle che sono le piscine per uso pubblico, soprattutto quelle più complesse. Quindi oggi facciamo da tutte le piscine per le Olimpiadi, i giochi, i campionati mondiali, quindi tutto quello che è legato al nuoto, e anche piscine molto particolari, parchi d'acqua. In questo momento stiamo facendo un edificio particolarissimo a Miami Beach, si chiama Porsche Tower, è una torre di 50 piani con 120 piscine tutte nere che si affacciano sull'oceano e che hanno delle complessità ma anche delle caratteristiche veramente particolari. Non delocalizzare è stata non solo una scelta, ma anche una convenienza resa possibile dalla facile logistica. E poi abbiamo la fortuna che spedire queste piscine per noi, per il tipo di costruzione che facciamo, sono in realtà degli elementi d'acciaio inossidabile, quindi riusciamo a metterli in container e spedirli senza un grande costo. Noi ad esempio lavoriamo molto in Australia e Nuova Zelanda per tradizione, che sono proprio la parte opposta del mondo dall'Italia, e il costo di trasporto non supera mai l'8-10% neanche in posti così lontani, per cui non è mai proibitivo rispetto a quello che sarebbe ricominciare tutta un'attività di produzione locale. E la capacità di gestire progetti internazionali e di grandi dimensioni ha portato Piscine Castiglione a Rio. Le piscine legate al mondo sportivo sono forse la parte più importante, più conosciuta della nostra attività. Il motivo per cui abbiamo avuto così tanto successo è che siamo molto legati alle federazioni internazionali. Noi sponsorizziamo la FINA da tanti anni, che è l'equivalente alla FIFA per il calcio, cioè la federazione internazionale, ma ne sponsorizziamo anche una quindicina nazionali, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, sono moltissime. Questo legame quindi col mondo di chi gestisce lo sport e il fatto di aver poi tra i nostri venditori, anche tra i nostri collaboratori, molti ex nuotatori, ex allenatori, quindi diciamo c'è tutto un legame col mondo sportivo che ci permette di essere davvero super specializzati e molto avanti in tutto quello che è la parte di sviluppo. Ormai noi siamo alla nostra quarta Olimpiade e abbiamo fatto decine e decine di campionati che vanno dai campionati del mondo ma anche campionati sud-est asiatico, africano. Rio è stata e sarà, speriamo bene, poi nello sviluppo poi di tutti i giochi, ma è un'attività comunque molto particolare perché per la prima volta noi realizziamo per una sola Olimpiade 18 piscine, quindi una quantità di impianti molto particolare, comprese tutte quelle principali. Abbiamo anche l'onere di gestire le vasche durante le competizioni, quindi proprio per i legami con le federazioni saremo noi a gestire le condizioni di competizione, che comunque atleti che si battono su centesimi di secondo, qualsiasi cosa si muove in vasca o se ci fossero delle tolleranze dimensionali un po' diverse, sono super sensibili. Per cui per noi è una grande opportunità e devo dire che nonostante tutto quello che si sente sulle Olimpiadi, ad oggi abbiamo già quasi terminato tutti i lavori e alla fine il rapporto anche con il popolo brasiliano e i nostri clienti, perché in realtà sono 8 clienti diversi, è stato positivo. Vantiamo di garantire le piscine più veloci al mondo. Tutte queste complessità però non si devono sentire e stanno dietro le quinte. perché un tuffo in piscina deve essere un'esperienza piacevole e spensierata. Noi speriamo sempre che il cliente, tutto quel mondo, lo veda il meno possibile, nel senso che poi se lui è soddisfatto e il tuffo in piscina lo fa bene, tutto funziona, vuol dire che quel mondo ha funzionato bene, ma non è stato troppo evidente per lui. E ora, dalla storia delle innovative e italianissime piscine Castiglione, passiamo all'innovazione nostrana di Facility Live, il motore di ricerca di Pavia che sfida Google. Facility Live è una software company, una delle prime tre PMI innovative riconosciute in Italia. Ha ottenuto brevetti in 44 paesi nel mondo. Il co-founder e CEO Giampiero Lotito. Io e Mario Ciateroni abbiamo avuto la prima volta la sensazione che costruire qualcosa del genere fosse un progetto di vita e di lavoro bellissimo, addirittura nel 1989, quando non esisteva neanche internet, e vedemmo un filmato della Apple di allora che si chiamava Knowledge Navigator, il navigatore della conoscenza, che raccontava come sarebbero stati i computer dopo il 2010. Quindi... questa è stata la scalata, diciamo, e sì. Siete arrivati fino a diventare una sfida italiana a Google, e siete arrivati fino a creare un motore di ricerca che appunto fa paura a Google. Ma perché? Beh, io non credo che la mattina Brin e Page si sveglino andando a vedere cosa stiamo facendo noi a Pavia. Il nome si chiama Facility Live, quindi vuol dire una semplificazione, forse è per questo che può aiutare le persone maggiormente? Ridare agli uomini la possibilità di prevalere sulle macchine e non essere guidati in tutte le scelte che facciamo quotidianamente da un algoritmo che decide al posto nostro qual è la migliore vacanza, qual è il migliore libro, il miglior film, il miglior ristorante in cui andare. Ci tracciano, ovviamente tutti i motori di ricerca ci tracciano e poi veniamo inseguiti da proposte. Sì. Voi però fate una ricerca con analisi lessicali. Abbiamo la possibilità di fare delle ricerche che sono molto simili alle domande e alle risposte che si danno due esseri umani. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione più lunga, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina programma di Voci d'Impresa e curiosando nella sezione extra, dove potete anche scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.